Ascolta, puoi fare una prova, puoi passare in FM per vedere se il problema è solo in AM? È uguale, guarda, è uguale, aggiustalo, quella radio non funziona. No, zero, non ho capito. Comunque sto provando ad andare in FM e provo a farti una chiamata per vedere se migliora la situazione. Sì, che ti dicevo. Mi ricevi? Sì, ti ricevo, sì. Quella radio è sordo, aggiustalo.